Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. A inizio con questa sera la settimana speciale con cui una volta al mese vi parliamo di innovazione in collaborazione con il progetto Audi Innovative Thinking. Parliamo di raccolta pneumatica dei rifiuti. Infatti, grazie alla sempre più ampia diffusione della raccolta differenziata, di cui è persino superfluo ricordare l'importanza, la raccolta dei rifiuti sta diventando un'operazione sempre più complessa, che richiede un forte dispiegamento di mezzi di raccolta costretti a circolare sempre più spesso, con ricadute naturalmente economiche, ricadute sul traffico, spesso questi mezzi causano rallentamenti e naturalmente anche ricadute ambientali. Tuttavia esiste la possibilità, ancora oggi per la verità molto poco sfruttata, di passare a una modalità di raccolta e gestione dei rifiuti che potremmo definire 2.0. È una modalità che ricorda insomma molto da vicino la vecchia posta pneumatica, che tra l'altro è una tecnologia che sta vivendo una specie di seconda giovinezza nella nostra epoca per varie ragioni. Ne parliamo con Alberto Beretta, che è amministratore delegato di Oppent, azienda italiana che è appunto operativa in questo ambito sin dagli anni 60, appunto lavorando all'epoca sulla posta pneumatica. Buonasera Beretta. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, voi vi occupate appunto, diciamo così, di raccolta pneumatica dei rifiuti. Ci spiega per cominciare appunto come funziona il sistema? Certo, allora il principio, come ha detto, è declinato, ricavato proprio dalla posta pneumatica, quindi il sistema, quindi una rete di tubazioni, immaginiamoci una rete di tubazioni messa sottoterra, immaginiamoci di avere una serie di cestini fuori dalle aree residenziali, di arrivare con i nostri... Al posto dei cassonetti, per intendersi. Al posto dei cassonetti, diciamo che non ci sono neanche i cassonetti, certo, dove c'è il porta a porta come a Milano, al posto dei cassonetti in casi dove ci sono ancora attualmente, mi pare in zone tipo Roma e quant'altro. Quindi usciamo, invece di avere appunto i cassonetti, ci sono 4-5 cestini particolari che ci consentono di inserire i 4 sacchetti dove ci sono i rifiuti differenziati, quindi carta, vetro, plastica e indifferenziato. Una volta raccolti, questi rifiuti dove vanno a finire? Fanno un percorso verticale di mezzo metro, sottoterra c'è una rete di tubazioni che ha la funzione di allontanare questi rifiuti e convogliarli dove? In una centrale di raccolta che è ubicata in una zona limitrofa all'area residenziale, di solito le distanze possono essere un chilometro e mezzo. Questa centrale di raccolta è come un grande box messa sottoterra. E cosa c'è all'interno di questa centrale di raccolta? C'è immaginiamoci un grande deviatore, sì, che va a smistare i rifiuti e va a convogliarli in differenti container, all'interno dei quali viene raccolta la plastica, la carta, il vetro, eccetera. All'interno di questi container vengono compattati, sì, i rifiuti e giacciono per 2, 3, 4 giorni, fino a quando il container non è saturo. Il camion vengono a raccogliere questi container, certo, arrivano dei camion, raccolgono, scaricano il container vuoto, caricano il container pieno e vanno e portano il rifiuto alla discarica. Ecco, naturalmente dovrebbe essere chiaro parlando di posta pneumatica, ma questi sacchetti dell'immondizia viaggiano spinti da un flusso d'aria all'interno di questi tubi. Senta, quali sono i vantaggi di questo sistema? Ok, ci togliamo dalla vista i rifiuti, però insomma un'infrastruttura del genere non è proprio gratuita, quindi forse come motivazione non basta. Quali sono i vantaggi? Allora, innanzitutto abbiamo dei vantaggi sotto l'aspetto inquinamento atmosferico e inquinamento acustico. La raccolta tradizionale dei rifiuti avviene con un numero elevato di camion, automezzi, sì, automezzi. Con un impianto di raccolta rifiuti pneumatici, i camion non vanno più davanti ai civici delle varie, certo, residenziali, ma vanno direttamente alla centrale. Fanno un viaggio solo, diciamo, per portar via tutto. Quindi il rapporto all'incirca, chiaro, di movimentazione, stiamo parlando anche di 1 a 50 nell'arco, okay, dell'anno. Ok, secondo, d'accordo. Secondo vantaggio, ovviamente, l'inquinamento acustico. Sappiamo quanto fastidio questo inquinamento acustico generano gli automobili. La raccolta del vetro è una roba terrificante, per esempio, no? E c'è una questione naturalmente di igiene. Assolutamente, il problema igienico, cosa ha fatto il porta a porta? Prima vedevamo tanti sacchetti rifiuti nell'arco di tutto l'arco della giornata sulle strade. Il porta a porta si basa sul fatto che dice agli inquilini: teneteli nascosti all'interno delle vostre case oppure all'interno, certo, delle vostre aree, e in un'area prestabilita del giorno dovete portarli, certo, fuori. E la cosa devastante è proprio quello che avviene in quella mezz'ora. Sì. Senta, veniamo ai costi. C'è anche un risparmio economico con questo tipo di sistemi di raccolta? Allora, questi impianti, più è ampia l'area di intervento e meglio hanno la loro redditività, quindi partiamo da una base, hanno senso questi impianti di raccolta di rifiuti pneumatica con unità abitative che vanno dai 200 alle 300 abitazioni. Da lì in su. Paradossalmente, se un domani immaginassimo che si decidesse di automatizzare con un impianto pneumatico tutta la città di Milano, potrebbe avere dei costi elevatissimi ma avrebbe dei rapidissimi ammortamenti. Grazie Alberto Beretta. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, ci risentiamo domani.